Filmbusters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. No, ha anche scritto che Alex Diro gli ricorda tantissimo Will Wush. Grazie, che è il più bel complimento che potessero farmi. Così, è così la storia. Va bene, allora, se non vengo io interrotto ancora dalla tosse del monco, direi che si può iniziare con il 19° episodio di Filmbusters. Al solito chi parla è Alex Diro. Will Wush, esatto, che assomiglia a Will Wush in maniera impressionante, per questo si impiccherà stasera. Con me ci sono sempre il Manco. Ciao, ciao. E l'Intrinseco. Ciao. Allora, puntata abbastanza scarna, alla fine parleremo solo di un paio di film, ovvero dello Hobbit, Un viaggio inaspettato, e di Moonrise Kingdom, il nuovo film di Wes Anderson, di cui avete letto la recensione un mesetto fa più o meno. Letto, tra virgolette. Sì. Letto, L'apostrofo letto proprio. E volevamo fare anche una piccola carrellata di news, cioè il Monco che è caldissimo, che... siccome non è morto nessuno, voleva anche dedicare la puntata a Spielberg, che ha fatto gli anni ieri. Sì? Mi suona nuova questa. Sì. No, ogni anno fa gli anni. Non è... Ah, ecco, mi sembrava. Dai, dici qualche news interessante, visto che comunque non possiamo cazzeggiare che devi andare alla cena del basket. Vogliamo dedicare questa puntata alla famiglia Lanza. E la famiglia di quel ragazzo di 20 anni che ha fatto fuori un'intera scuola in America. Ah, Lanza, io ho sentito solo che sono morti dei bambini e... Vabbè, però... Investiti da una lancia. Sì, è vero. Da una Delta HF. Però la notizia casca a fagiolo perché hanno annullato varie premiere, tra cui quella di Django Unchained, per rispetto alle vittime. Quindi dopo la... Ora, secondo me ormai quando non sono pronti per certi appuntamenti cinematografici fanno le stragi, tipo per Gangster Squad, no? Sì. No, per Gangster Squad hanno tolto proprio delle scene. E quindi sì, evidentemente non funzionavano, i produttori non volevano toglierle e il regista ha organizzato una strage. Vabbè, è costosa come cosa, ma funziona. Sì, sì, efficace, io approvo. Infatti il regista ieri ha detto che proprio di Gangster Squad che quelle scene era giusto toglierle. Quindi qualcosa sotto c'è, è sì. Ovvio adesso. Vabbè, news veloci. Tipo che ormai The Expendable 3 è ufficiale, ci sarà pure Jackie Chan. Questo non è proprio ufficialissimo, al 99% sì, per la gioia di Intrinseco, vero? Vero? Avevo letto che aveva dettato delle condizioni per la sua partecipazione. Sentiamole. Non lo so, non l'ho letto. Come? Le hai sentite, hai detto. Ma penso che fossero tipo quelle di di Chuck Norris, che non voleva che si dicessero parolacce sul set. Invece la prossima notizia è... è vera sta cosa. Faranno il film su Kojak. Quanti appassionati sono ancora di Kojak, eh? Piccoli, eccoli, li avete sentiti? Nessuno. Belli Savala, ti vogliamo bene. Sì, sì, è vero. Era il nostro professore di sistemi all'ITIS di Borgomanero, per cui siamo affezionati. Ah già, poi dobbiamo dare la risposta di quel quesito di chi era il nostro professore di elettronica. Giusto, non ha tentato nessuno. Potevamo dare l'indizio, è il nome di un grande regista italiano, comunque un famoso regista italiano. Argento? No, no. Con la P. Margento Maurizio, no, più vecchio. Vabbè, basta, non mi piace questa. Che stavano lì tutto il tempo a dire come si chiama il film. Hanno già scelto gli sceneggiatori saranno gli stessi di Skyfall. Madonna, che organizzazione, che roba, una merda che sarà. E chi farà il pelatissimo Kojak, il tenente Kojak? Vin Diesel, no? Cosa stranissima. Vincenzo. Come se facessero, che ne so, il tenente Colombo adesso con Tom Cruise. Ma perché? Prendetene uno brutto e vecchio. Vabbè. Non vedo l'ora di vedere Vin Diesel con lecca lecca, mamma mia. Sì. Tantissima. Un'ultima domanda. Ah no, quello è non si tratta così, Ugo Piazza. E poi ecco, vabbè, è uscito il trailer di Oblivion. È il gioco, no. Guardate l'eurino. Vabbè. E poi è ufficiale il seguito anche dei Muppets, finalmente con la S, quindi vuoi vedere che anche in Italia hanno capito che si dice Muppets? No. E il protagonista questa volta sarà Ricky Gervais, quindi un mucchio di battute contro gli ebrei e contro i vecchi ci saranno. Ho capito. E vabbè, altra news di oggi è che il seguito di Prometheus non sarà scritto da Damon Lindelof. Ciò significa che lui ha buttato nel calderone un sacco di misteri irrisolti e di cazzate che di cui non sapremo mai, non avremo mai risposta. Che peccato. Che peccato. E aspetta, direi che non sapremo mai come andrà avanti Prometheus. No, credo che ascolteranno la nostra puntata per decidere come andrà a finire. Quindi guerra totale con i chiellini che non danno risposte. Ma no, allora, io dirò... spasso. Adesso davano tutti la colpa a lui del film, adesso sarà un capolavoro la parte 2. Io dirò una cazzata, per me finisce come inizia Alien. Cioè? Alien il seguito. Spiegacelo. Alien il seguito. È ovvio. Vabbè, c'è un'altra news allora. Ci sto lento. Un'altra news per chiudere con le news, un altro sequel impensabile, La Talpa, cioè Tinker Tailor Soldier Spy di Thomas Alfredson avrà un sequel e sarà diretto sempre da lui, quindi una buona notizia, diciamo, almeno per chi aveva amato il primo. Non so come se la sbrigheranno, perché comunque credo che il primo film esaurisse il ciclo di romanzi, o il romanzo, non so, quindi boh, vabbè. Speriamo bene, chissà. Ma come lo chiamano stavolta? Aggiungono un personaggio al titolo, no? La marmotta. Sì. Tutti ricordi. E vabbè, altra news, Cristiano Ronaldo ha passato la notte con Nicole Minetti. E Berlusconi ha detto che scende di nuovo in politica anche per questo. E poi è nata la figlia di Balotelli. Che non è di colore. Sì, che è di colore, dai. Ma no, dai. È napoletana, è di colore. Come disse poi... Bill Murray, è scolorita. Sì. E poi chi l'ha pubblicato? Credo Intrinseco. Comunque, ho visto anch'io il trailer del nuovo film di Almodovar. Gustavo Almodovar, che si chiama Gli amanti passeggeri. Ma che è una sorta di presa in giro degli abbracci spezzati. Tutti questi titoli strani. Sì, appunto, l'originale è il titolo della canzone, I'm so excited, non ho capito. Sono eccitatissimo. Ma poi da cosa l'hanno dedotto il titolo, visto che è solo un trailer e non fa vedere nulla del film? Che spettacolo. Direi che questa parte possiamo anche tagliarla. Perché? Non stiamo registrando. sì, stiamo registrando. Dai, scherzo. Che fa? Stasera spacco tutto. Passiamo ai film allora? Dai. Cosa iniziamo? Con Moonrise Kingdom? Dai, che è più vecchio. Allora, visto che comunque parliamo di due film di cui la recensione di cui ho scritto la recensione, sarò io a introdurli per la prima volta, quindi mi arrogherò di questo diritto esclusivo, perché sono un grande, ormai scrivo solo io per il blog. Allora, partiamo quindi con Moonrise Kingdom. è il nuovo film di Wes Anderson dopo il successo straordinario di pubblico e di critica di Fantastic Mr. Fox, il film in animazione a passo 1 con le volpi e gli animali del bosco. Torna quindi al cinema live action con un film ambientato in... non so se esiste veramente questa isola, penso di sì, New Provence, non esiste. No. È immaginaria, sì. C'è questa isola quindi al largo del New England, New Provence, dove non ci sono strade ma ci sono un sacco di campi di grano. Il protagonista quindi si innamora della figlia di due avvocati che governano la famiglia con un regime quasi militare. Nasce quindi un rapporto epistolare tra i due che decidono a un certo punto di fare la fuitina, fare la fuga praticamente d'amore in mezzo ai boschi. Inizia quindi un inseguimento tra i genitori della ragazza, il capo degli scout, interpretato da un Edward Norton molto, molto allucinato, e anche da parte di Bruce Willis, che interpreta il capo della polizia. Insomma, questa è la trama in breve, non premo più il pulsante del microfono, se no... non mi sentono più e si sentono persi gli altri due. E niente, insomma, che aggiungere a quello che ho scritto nella recensione? Ah, innanzitutto... un'opinione. Non l'ho scritta un'opinione, perché devi dire le cose che non sono vere? L'ho scritto, mi è piaciuto tantissimo, solo che nella recensione ha preso più spazio forse del dovuto, quell'invettiva contro chi dava Anderson per bollito dopo il treno per il Darjeeling, che... personalmente è il mio film suo preferito. Niente, alla fine Anderson non è che ha cambiato di una virgola il suo cinema, c'è forse un cambio di registro quando i due ragazzini scappano nei boschi durante la loro fuga d'amore, però fondamentalmente si tratta sempre delle solite carrellate, del solito cinema di Anderson, quindi se lo si ama, si amerà anche questo film. Io personalmente l'ho amato, trovo che sia un buonissimo film sull'infanzia, si ride, ci si commuove, pieno di buoni sentimenti, c'è un finale forse un po' inquietante, in cui sembra quasi che... questi sentimenti possono manifestarsi solo sotto traccia, nel senso che comunque, vabbè, insomma, non spiegavo il finale, non andiamo oltre, però la mia chiave di interpretazione è abbastanza inquietante, cioè molto nicciano, diciamo. Niente, secondo me, vabbè, non voglio ripetere le stesse cose che ho detto nella recensione, quindi non approfondirò ulteriormente l'invettiva contro i detrattori di Anderson, come i cani che hanno fatto quel trailer. Si chiamano proprio i cani, non è che li sto apostrofando io in questa maniera. E niente, voglio sentire prima un po' voi, magari, che ho visto che il Monco è andato in brodo di giuggio, le ha scritto miglior film del secolo, quella. Però se non parlate, insomma, diventa difficile. Io non devo parlare, è il Monco. Vabbè, tu non l'hai visto, scusa. Sì, ma stavi parlando di lui, della sua opinione. Ma che c'è? Oggi... Non lo so, hai detto, per esempio, il Monk, e io ho detto, vabbè, dopo. Lascio tutto, non edito. Arrivo. E dai, sì, uno spasso. Scusa, no, non dicono che siamo mosci, così. Ha toccato il microfono. Vai. Tasto. Il coso. Sì, bellissimo. Allora, l'Hobbit è un bellissimo. No. Ah, scusate, siamo ancora a Murray Skindown. Tra l'altro, pensavo, ci hanno dovuto sempre, come al solito, mettere il sottotitolo terribile. Vabbè, terribile questa volta magari no, però la fuga d'amore, vabbè. Sarebbe stato bello invece se toglievano quel titolo che è molto difficile da pronunciare in cassa, perché già mi immaginavo chissà che roba, Murrise Kingdom, e potevano chiamarlo La Fuitina, sarebbe stato bello, il nuovo film di Wes Anderson, La Fuitina. No, ancora molto... meglio, potevano mettere il sottotitolo allo Hobbit, Una fuga d'amore, è ancora più ambiguo. Sì, Aridaglie coi nani potevano chiamarlo. Bellissimo, bellissimo, poetico, come si dice, simil pedo pornografico, una meraviglia. No, magari. Allora, sì, è vero, è il solito film di Wes Anderson, come Magnolia e gli altri. Vabbè, sì, ok, Wes Anderson fa sempre il solito film, sempre i soliti personaggi, questa volta meno, perché i protagonisti sono i bambini, di solito invece sono degli adulti che fanno i bambini, cioè sono degli adulti infantili, e poi non c'è, non è centrale la famiglia disastrata solita che lui mette in ogni film, anche se gli elementi suoi sono sempre tipo la famiglia che sta divorziando e tutte quelle robe lì. O per esempio il cane che muore sempre, avete notato che ammazza sempre il cane nei suoi film? Sì, sì. Ecco. E anche il cane che si chiama Snoopy, un altro, un ennesimo riferimento ai Peanuts, lui sarà contento intrinseco. Zitto, eh? Sì. Zitto. Subito che si inserisce. Vabbè, io sono innamorato del suo modo di girare, quelle inquadrature, quella disposizione degli oggetti sempre in maniera... simmetrica, tipo la scena della spiaggia è bellissima, c'è il mangianastri in mezzo, la sacca di qui, la lanterna di là, è tutto preciso, i due personaggi uno da una parte e uno dall'altra, bellissimo. Poi le inquadrature che si girano a 90 gradi, dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra, così, bello, mi è piaciuto tutto, non riesco a trovare una cosa che non mi sia piaciuta. L'ho anche rivisto recentemente, è troppo bello, non riesco a trovare una cosa brutta. Per di più ha continuato a fare le cose che faceva con Fantastic Mr. Fox. C'è una scena in cui scappano verso la fine su un ponticello e sembrano fatte in 2D coi pupazzi, è identica, anche la scelta degli attori, tipo lei, adesso non mi viene il nome, c'è un nome strano lei, è così lungilinea, così strana, sembra un altro pupazzetto dei suoi, bellissimo. Mi dispiace. Cosa? Beh, di. No, mi dispiace che alcuni, molti, non hanno trovato un senso a questo film, non l'hanno capito. Ma prima di tutto, cosa c'è da capire? Infatti. Una storia d'amore, è semplicissima. Infanzia, amore, questi due scappano, non capisco. E poi quelli che fanno quelle domande stupidissime, tipo: perché lui si mette lì sulla roccia e dice, ah, da qui in poi io non combatto più, e viene preso da un fulmine? Ma chi se ne frega? Cioè. Perché lo fa? Non lo so, è una gag, c'è il fulmine, viene colpito, e chi se ne frega. Poi c'è anche una motivazione, perché sta citando il grande capo Joseph, non so, tradotto in inglese, che nel 1877 scappò dall'esercito americano, e lui si mise su un sasso e disse quella frase. Però chi se ne frega, è una storia così, bisogna analizzare ogni cosa, non capisco. Rovini il film, non... e guardatelo, sta zitto. Esatto. Ma sei d'accordo con me col fatto che Anderson non se n'è mai andato, nel senso che tutti parlano quasi di rinascita con un Fantastic Mr. Fox? No, fa sempre il solito film, ma finché li fa così belli non dirò mai nulla. Quando diciamo fa sempre il solito film sembra quasi un'accezione negativa, invece no, perché comunque a noi piace Wes Anderson, quindi ben venga che faccia sempre il solito film. Beh, Fellini e Kitano fanno sempre, cioè uno faceva sempre il solito film, e allora, cioè sono sempre i soliti elementi, la solita regia, però nessuno si lamenta mai, a parte gli ultimi di Kitano, ovvio. Tim Burton fa sempre lo stesso film e ci lamentiamo perché ormai sono... Perché i film sono stati delle merde, però se fossero sempre allo stesso livello ben venga. Cioè, certo. Quando ne sbaglierà uno Wes Anderson lo cazziamo di brutto. Ma, cioè, gli mandiamo a casa gente brutta. Sì. E intrinseco invece, ascoltiamo un attimo il tuo parere. Vabbè, anche per rispondere alla tua domanda, secondo me non c'è nessuna rinascita, nel senso è abbastanza lineare come percorso. Ma secondo me questo tipo di osservazione la fanno quelli che, anche fan del regista, ricordo che con appunto Il treno per il Darjeeling, se mi ricordo male io, mi sembra che con quel film ci furono molti cambiarono opinione su di lui, o comunque dissero, questo film è meno, mi ricordo vagamente che non piacque come gli altri, forse è riferito a questo, però non so, perché mi ricordo che molti ammiratori poi lo rividero un po' il giudizio dopo quel film. Sì, io non lo amo particolarmente Un treno per il Darjeeling, nel senso mi piace ma meno degli altri. Visto che tu hai detto il tuo preferito è quello, il mio preferito è non perché sia una rinascita, ma perché mi piace e basta, è proprio Fantastic Mr. Fox. E quindi da qui mi collego. Il motivo per cui mi piace quest'ultimo film è che è incredibilmente simile in tutto a Fantastic Mr. Fox, è lo stesso film senza i pupazzi, è impressionante, è riuscito a fare le stesse cose senza la stop motion e senza la facilità, tra virgolette, di girare con dei modellini. Cioè, la prima scena fatta con una casetta di bambole, dice, vabbè, è bella, però è semplice, e lui lo rifà con gli attori veri e una casa, è bellissimo, è carrellate verticali, orizzontali, gru, panoramiche, e ti fa vedere questa casa che diventa una casa di bambole, e tu vedi queste figure, questi personaggi, e sembrano bambole, perché poi è tutto, sì, poetico, dice il monaco, però è tutto molto finto, cioè, i bambini e le persone non sono così, però è il bello del film è questo, è del cinema di Anderson, però sembrano appunto delle bambole, dei pupazzi, delle cose, delle figure caricaturali, anche i perdenti al massimo, i bambini innocentissimi o cattivi, non li vedresti mai come reali, è proprio la magia di questo tipo di cinema, sono delle bambole in una casa di bambole, lui ci gioca e ci diverte un sacco, e forse sono così belli da vedere. Comunque è bellissimo, sempre registicamente interessantissimo, a me è piaciuta molto, a parte la messa in scena solita sua, ma la scena della spiaggia, cioè una cosa ingiustificata ma bellissima, quando i due bambini salgono sui due scogli e si guardano in faccia, e di colpo la fotografia comincia a diventare graffiata, sbiadita, un po' ipersaturata, un po' controluce, sembra un film romantico anni 60, no? La coppietta sulla spiaggia, è bellissima, è una cosa così demenziale quasi, come tutto il film, appunto la scena del fulmine, ma anche la scena della bici e della guaccia, no, è una moto, non mi ricordo, sì, una motocicletta, motocicletta a reazione, insomma questa rissa che poi non si vede, taglio e vediamo una moto sull'albero, un ragazzino che sanguina, anche quello molto macabro, è strano, perché fin lì è tutto abbastanza innocente, lì vedi proprio il sangue, le forbici insanguinate, il panico degli adulti, è stata strana, molto straniante, comunque sì, bellissimo, loro molto simpatici, gli attori. Poi appunto sì, sembra sempre un film di marionette, di pupazzi, anche la scena sul tetto della chiesa, credo. Comunque tutte queste scene al buio o contro luce, che sembrano bidimensionali, loro che fuggono lungo i prati, comunque delle alture, visti di profilo. È riuscito a replicare con lo stile così bello con le persone. Già solo questo è così difficile da fare che lo rende un prodotto interessantissimo. Poi si aggiunge tutto quello che abbiamo detto e viene fuori sì, uno dei film più interessanti dell'anno sicuramente. Poi il finale sul tetto di una chiesa è un classico, e lui l'ha rifatto proprio, questo è un film colto che cita bene, non so, il finale di Metropolis sembra bellissimo, è così che si cita bene, mi si sente? Sì. Ah. Eravamo solo ipnotizzati alla tua voce. Grazie. E non lo so, quindi possiamo passare al prossimo film o volete aggiungere qualcosa? Aggiungo solo che la sceneggiatura l'ha scritta insieme al figlio di Coppola, Roman Coppola, che adesso sta uscendo anche con un nuovo film, è già uscito, che è ancora introvabile, volevo vederlo, vabbè. E quando Coppola, che poi è parente di, come si chiama? Quello che Sofia Coppola. Schwarz. Che c'è sempre nei film di Anderson. Ecco. Coppola ha messo la scena in cui c'è la madre che chiama tutta la famiglia con il megafono, perché sua madre, che era Eleanor Coppola, lo faceva, cioè chiamava i figli così con il megafono. Questa è un'idea di come vivevano in casa Coppola. Che bello. Forse hanno delle magioni. Sofia! Vabbè, un'aggiunta, ma quanto sono bravi e simpatici gli attori bambini, a parte i soliti noti, quindi ho evitato di parlarne, Willis, Murray, ma i ragazzi sono davvero splendidi, specie il cattivo e quello che poi alla fine investaglia e decide di aiutare il protagonista, sono anche i soprannomi, davvero bello anche questo aspetto, il mondo scout è rappresentato in modo molto colorito, è bello. Edward Norton poi è fantastico, non fa granché, però ci sta bene. Poi quando si sveglia, esce dalla tenda e non trova più i ragazzini. Ah, ma una bella prova anche da parte di Willis, c'è cioè la scena in cui prendono coscienza della della vita, insomma, del protagonista, che ha avuto un'esistenza complicata per il fatto che è orfano e comunque ha una famiglia adottiva che a cui sembra che non freghi nulla di lui, insomma. È molto delicata la performance di entrambi. Sì, beh, lo fa bene il perdente in questo film, Willis. Sì. Lo vediamo spesso così. E mi piace molto negli split screen con agente servizi sociali, che non ha nome. Sì. E lui sbracato, molto cadente, con queste gambe larghe, buttato sullo schienale della sedia. È fantastico, però bello da vedere nella sua malinconia. Adesso sembra che qualcuno stia in mezzo alla strada. Oh. Adesso no. Oggi, guarda, travagliatissima sta puntata, eh. La fine del mondo. È la fine del monzo. Monco. Il monco, sì. Mutande. Allora. E purtroppo c'è un altro film, vero? Purtroppo c'è un altro grandissimo film. Lorena Bobbitt, sì, esatto. Biopic ad alto tasso di erotismo e sangue. Sì, esattamente. Parliamo de Lo Hobbit. Un viaggio inaspettato, ovvero il primo episodio della nuova trilogia di Peter Jackson basata sulle opere letterarie di Tolkien. Immagino che la trama la sappiate tutti, però sai com'è, è il nostro modus operandi questo. Ma che quindi... ti immagini, scusa? Ah sì, ma dai, dopo la trilogia cinematografica di Signore degli Anelli c'ha avuto un'esplosione di vendite di libri di Tolkien impressionante. Bonpiani va avanti solo con quelli. Ma non è della Delphi? La Delphi pubblicava Lo Hobbit e continua a pubblicarlo, quindi immagino che abbia comunque i diritti dello Hobbit, però ce l'ha anche a Bonpiani. A Bonpiani proprio c'ha i diritti su tutta l'opera letteraria di Tolkien, quindi. E via. Però vabbè, insomma, parliamo di un periodo 60 anni precedente alla Compagnia dell'Anello, quindi c'è un giovane Bilbo che quando era ancora un hobbit rispettabile, che non si era mai cimentato in un'avventura, fino a quando Gandalf non bussa alla sua porta e, spacciandolo per uno scassinatore, lo coinvolge nella riconquista di Erebor, una fortezza nanica che era stata conquistata dal drago Smaug. E, come prevedibile, il percorso è lungo, quindi i nostri eroi, ovvero oltre a Bilbo e Gandalf, anche una compagnia di 13 nani capeggiati da Mammolo, Pisolo e Thorin Scudo di Quercia, il loro capo. E, siccome insomma il percorso è lungo, quindi troveranno molti ostacoli, come ad esempio i troll che si vedono anche nella Compagnia dell'Anello, o il malvagissimo orco pallido Azog, e c'è spazio anche per Gollum in una delle scene che forse è la migliore del film. Allora, innanzitutto diciamo subito che è un film che non ha incontrato lo stesso consenso unanime della trilogia. Il Monco dirà ragione perché lo ha odiato, ma poi più avanti daremo parola e non dategli retta perché non ha ragione. Aspetta, ricordiamo che anche la Compagnia dell'Anello forse all'inizio non è che aveva avuto il riscontro che poi ha avuto l'opera nell'insieme, quindi magari... Ma oddio, guarda, basandomi sui meri numeri di Rotten Tomatoes, credo che la Compagnia dell'Anello, oddio, forse non esattamente come il Ritorno del Re, però insomma siamo da quelle parti. Sicuramente al di sopra dell'80% di recensione, anzi, ma adesso io però mi ricordo all'inizio, subito dopo. Rotten Tomatoes conta le recensioni immediate, mica posteriori. Ah, sì, pensavo fosse quelle complessive. Vabbè, allora. No. Comunque aveva un 92% di recensioni positive, quindi insomma, abbiamo detto una mezza cretinata. Quindi Lo Hobbit ha una percentuale del 65%. Ora, diciamo che portiamo sempre come esempio del parere della critica la percentuale di Rotten Tomatoes, quindi lungi da me dire che non ci hanno capito niente i critici, anzi, però diciamo si cerca un po' di interpretare il pensiero della critica statunitense, almeno dagli estratti delle recensioni, bisognerebbe leggerle tutte, però la frase più significativa sta lì a testimoniare che ci si aspettava un nuovo Signore degli Anelli, soprattutto nei toni e nell'atmosfera della pellicola. Poi vabbè, c'è anche tutto il discorso sulla rivoluzione dei 48 fps che evidentemente non ha convinto in molti, che l'hanno definito un film quasi simile a Benny Hill Show, insomma, perché i personaggi si muovono tutti a scatti. In ogni caso, insomma, c'è stata quindi questa incomprensione, ecco, perché L'Hobbit non è un'opera, diciamo, nemmeno paragonabile alla complessità del Signore degli Anelli. Ricordiamo che è un libro di circa 350 pagine, e, è stato diviso in tre, evidentemente per ragioni commerciali. Per allungare il brodo sono state aggiunte delle appendici presenti in altre opere di Tolkien, e si vede questo perché comunque uno dei difetti principali della pellicola è senza dubbio la dilatazione della narrazione. Molte sequenze sono troppo lunghe, specie quella iniziale nella casa di Bilbo, ma anche c'è un discorso a quattro tra Gandalf, Saruman, Elrond e Galadriel che non finiva mai, si trova nella parte centrale del film. In ogni caso, l'atmosfera è molto diversa rispetto a quella del Signore degli Anelli. Questo anche perché l'opera da cui è tratto è un'opera minore, ma comunque è un'opera più scanzonata, è una favola per bambini. Ora, ho visto tentativi di revisionismo storico sui vari forum di chi screditava il film perché Jackson l'aveva reso più bambinesco e lo Hobbit non è affatto una storia per bambini. No, è una cazzata questa. Tolkien l'ha scritta per i figli, il libro è stato recensito per primo da, la sanno tutti insomma, la leggenda, dal figlio dell'editore di Tolkien, che l'ha definito un libro adatto a bambini tra i 5 e i 10 anni. Tolkien addirittura, dopo aver scritto la trilogia del Signore degli Anelli, ha tentato di rimettere mano all'Hobbit per rendere più uniforme gli stili, più uniformi gli stili delle due opere, poi però ha rinunciato, insomma, per ragioni sue, ecco. E quindi i toni più fiabeschi, comunque meno impegnati, la complessità, cioè comunque la trama più semplice rispetto a Signore degli Anelli, ci sta tutta. E alla fine le mie ragioni le ho tutte scritte nella recensione. È un film che di cui alla fine mi sono innamorato, perché comunque non lo so, almeno per quanto mi riguarda, al netto di tutto quello che ho spiegato prima, quindi la dilatazione della narrazione, le sequenze troppo lunghe, innanzitutto la Terra di Mezzo è un posto straordinario, quindi anche solo pagare il biglietto anche solo per vedere un documentario sulla Terra di Mezzo, e vabbè. Al di là di questo, il fatto che la trama sia semplice secondo me non è un difetto, è raccontata bene a mio avviso da Jackson nonostante tutte le lungaggini. Sembra una frase fatta, però ogni tanto sento il bisogno di queste storie semplici, storie che comunque sono ben lontane dall'ipertrofia dei blockbuster recenti, di cui abbiamo anche parlato nella puntata del podcast dedicata al Cavaliere Oscuro. Cioè tutta questa, sembra quasi che i narratori dei film di blockbuster odierni non riescano a stare nella durata che comunque si è allungata dei vari film, quindi ficcano elementi a iosa e poi comunque non ci si raccapezzano. Questa è una storia semplice, i buoni sono buoni, i cattivi sono cattivi, ci sono momenti toccanti, la colonna portante che ritroviamo anche poi nel Signore degli Anelli insieme a tante altre tematiche, è quella dell'amicizia tra diversi, tra razze diverse. C'è questo rapporto tra Thorin e Bilbo, che sono i due protagonisti indiscussi della pellicola, che progressivamente si avvicinano l'un l'altro. Continuo a essere perplesso, sebbene la mia posizione si sia ammorbidita riguardo la divisione in tre pellicole. C'è da dire che il ritmo nella parte introduttiva, quindi nella prima parte del film, latita per le ragioni che ho spiegato prima, quindi le sequenze troppo lunghe. Nella seconda parte, visto che comunque si parla di sequenze d'azione, il ritmo per forza di cose aumenta e diciamo il film scorre via in maniera più liscia, ecco, più fluida. E, niente, personalmente sono contento che per 3 anni si parlerà ancora di una trilogia ambientata nella Terra di Mezzo. Dispiace magari per il fatto che fino a un certo punto, perché chi se ne frega, che non abbia ricevuto un consenso unanime. Più che altro dispiace vedere certi commenti di gente che veramente dovrebbe andare a cavare le patate, perché insomma Adam Warlock, vabbè. No, come siamo espliciti, però sì, alla fine è quello il discorso, ecco, insomma, mistificare la realtà per avvalorare la propria tesi mi sembra una cosa veramente triste. Vabbè, ma a questo punto diciamo cosa dice, chi non conosce Adam Warlock, che ha questa sfortuna tremenda, non sa cosa ha detto. Sì, cioè? Beh, no, alla fine è quello che ho detto prima, ovvero che l'Hobbit è un'opera, assolutamente non è un'opera per l'infanzia, è un'opera complessissima e Jackson l'ha rovinata, insomma, quella. Poi vabbè, si è inventato anche cose sulla tecnologia utilizzata, che non è un 3D, che lui l'ha visto senza occhialetti e lo vedeva comunque bene, vabbè, insomma, queste poi sono cose che lascio al suo psicologo, insomma, non mi metto a discuterle io. Quindi questa è la sua posizione, ma è una posizione che ho visto anche altrove, non è sì, l'unico. Sì. Ma lì sempre lì sullo stesso forum, non è l'unico, poi anche altrove ovviamente. E che poi sono opinioni che in un certo senso si possono anche rapportare a certe opinioni scritte sul Signore degli Anelli, ci sono questi appassionati forsennati che minacciavano di bruciare la casa di Jackson perché non aveva introdotto Tom Bombadil, altri che, vabbè, qui ci si accaniti particolarmente su Radagast. Per carità, anch'io condivido il fatto che non sia un elemento che funziona poi così bene, perché non lo so, forse un po' pacchiano la slitta con i conigli, insomma. Quando Gandalf gli passa la canna e va in un mondo tutto colorato che solo lui sa, insomma, sono cose che non funzionano, per carità, però insomma è un elemento che veramente ricopre uno spazio talmente irrisorio nell'economia della pellicola che basare una critica solo su quello, insomma, sembra un po' esagerato, ecco. Che poi è una cosa che trovavo anche nel Signore degli Anelli, insomma, anche i fan più accaniti del film avranno qualcosa da ridire magari sullo scudo che viene usato come skate o i troppi battibeccare tra nani e elfi, che poi sono un'invenzione tutta di Jackson, perché io ho letto solo Il Signore degli Anelli, ma ricordo che questa cosa dell'astio tra nani ed elfi è un'introduzione del film, che poi anche per rispecchiare quella del fantasy contemporaneo in cui si tende a mettere in contrapposizione queste razze. Però vabbè, insomma, c'erano anche lì questi. È vero che loro le hanno criticate anche nel Signore degli Anelli, quindi per quello sono stati coerenti. Sì, sì, sì, meno quello. E niente, non lo so, voglio ascoltare un attimo il Monco, che mi sembra, da quello che ha scritto su Facebook, non ha apprezzato il film. E poi voglio sentire anche te, dai. Il resto favore. Te, sì, sì, no, no, veramente io aspetto solo il tuo parere, perché sei stato molto criptico, hai detto che dovevi metabolizzarlo, quindi. Certo. Ah vabbè, piccola parentesi sull'aspetto tecnologico, come ho scritto anche nella recensione, l'ho visto in 3D a 24 fps, mi è sembrato un 3D abbastanza superfluo. Ora non so quanto dipenda dal fatto che il film comunque è stato girato con una tecnologia diversa, sì. E probabilmente tantissimo, però insomma, a parte un paio di giochi prospettici invitanti, mi è sembrato veramente superfluo. C'è proprio scritto che il 48 fps è stato fatto apposta per rendere il 3D più funzionale e più realistico, quindi vanno proprio a braccetto, è inutile vederlo o solo in 3D o solo in 48 fps, però vabbè, chi se ne frega. Peccato che però se lo giri così e poi lo proiettano 20 sale in tutto il mondo... Lo so. Vabbè, è un problema più italiano però. Non lo so, perché ho visto anche negli Stati Uniti, rispetto al totale delle sale, sono poche quelle che l'hanno proiettato in questa forma. Sì, beh, nel senso però sicuramente più che in Europa. Sì, vabbè, ma in Europa anche nel mio cinema a un certo punto sono saltati i colori e è diventato tutto viola. C'avevo gli occhi che lacrimavano. In Moonrise Kingdom hanno sospeso la proiezione tipo 2 volte perché saltava, si spegneva. E poi la Detassis dice che non andiamo al cinema perché siamo affamati di Facebook e non ci interessano le storie che ci raccontano gli altri. Grande Detassis, dai, continua così. Io vorrei ricordare la Detassis in Fantastic Mr. Fox. Sì, sì. E No, tra l'altro è stato girato anche con le Red Epic Cameras. Se tu ti ricordi Side by Side, che ne parlavano di queste super mega... questo è uno dei pochissimi film al mondo, probabilmente l'unico, sì, credo di sì, che l'hanno girato con queste super macchine. Che del prossimo sarà Avatar 2, perché mi sembra che... Ah sì, sì, non lo dicevano già lì, forse. Sì, oh, sì, sì, sì, sì. Vabbè. E, no, ma non è che io sia... deluso dal film. Quando non hai aspettative non sei deluso. Certo. Semplicemente non è il mio genere. E sono state prima di tutto 2 ore 40, 2 ore 50, passate comunque velocemente. Sarà che insomma, dopo che hai visto l'extended version di Il Signore degli Anelli da 10 ore, dici vabbè, questa roba qui è un allenamento. E però nel senso mi sono passate e non me ne sono neanche accorto, ma nel senso non mi sono neanche accorto di quello che ho visto. Appena mi incominci a parlare di nani, di elfi, di 24.000 nomi del cazzo di questi elfi, di questi nani, incomincio a vagare. Mi è piaciuto tantissimo come, cioè, il prologo bellissimo, visivamente è un film, Avatar se lo incula questo. Però cioè, non mi rimane nulla, non me ne frega un cazzo di questa roba, mi dispiace per voi nerdaroli del cacchio. però sì, non riesco a dire altro, ho notato anch'io la diluzione poderosa, tipo come si chiama, gli enigmi con Gollum sembrano finire più, cioè, gliene fa 4 di fila. E sono ancora pari, oddio, adesso ne fanno un altro, tipo qualcuno sbagli. E li hanno pure tolti, un bel po' rispetto al libro. Ecco. Che poi la cosa paradossale è che Il Signore degli Anelli, che comunque le standard version durano di più, eppure lì vedi la compressione, perché ci sono alcuni passaggi, era più evidente nella versione cinematografica, ma si vede anche nell'extended edition che ci sono dei passaggi tagliati un po' con l'accetta. Invece questo che... dura di meno, ci sono dei momenti che non finiscono mai. È anche troppo fluido il passaggio da una scena all'altra. Sì, sì, sì. Infatti io sto aspettando l'extended di questo. Voglio almeno... non oso pensare cosa sia l'extended. Cioè. 15 volta la cinematografica era quella molto più breve, per cui si sarà aspettato almeno 20-30 minuti di più. No, voglio 15 enigmi e poi nella scena in casa che hai già citato con tutti i nani e la cena la voglio... proprio in tempo realistico, è durata una sera, 3-4 ore, voglio che duri 3-4 ore, con anche la scena in cui Bilbo va a dormire, tutta la sua nottata bisogna vedere, perché bisogna arrivare a quella durata giusta. Paranormal Activity in Hobbiville. Sì, però non velocizzata la notte, ovviamente. Okay. Però ecco, secondo me si stanno un po' pentendo di averlo diviso in 3, magari in 2 era meglio. Ma dici per a causa del parere, della critica, del pubblico, cose del genere o perché? Un po' per quello, un po' perché gli Oscar, vabbè, non sono ancora arrivate alle nomination, però già i Globe li hanno totalmente snobbati. È vero che... Vabbè, però è lo stesso iter che ha seguito anche Il Signore degli Anelli. Eh? No, scusa. È lo stesso percorso che ha seguito anche Il Signore degli Anelli, perché i primi 2 furono snobbati, il terzo ci fu un premio cumulativo, insomma. Ah sì? La Compagnia dell'Anello e le Due Torri hanno vinto forse solo qualcosa di tecnico, ma poca roba. Ok. Magari... E nemmeno la nomination, mi pare che ottenne. No, ma poi a parte questo, a me sembra, è vero che un campione come i Forum non è sempre affidabile, ma mi sembra che il problema della lunghezza e della divisione sia una delle poche cose non citate nelle critiche, cioè ci si concentra su altro, sì. Mi sembra. Anzi, sorprende che nessuno, cioè pochi facciano riferimento. Cioè a me sembra proprio che il tenore della critica sia non è Il Signore degli Anelli, che per carità, ok, è il termine di paragone e tutto il resto, però non puoi basare una critica solo su quello, cioè giudicalo per quello che è. A parte che, a parte il livello molto basso, però è molto più infantile del Signore degli Anelli, però io non vedo così tante differenze, è vero che io non me ne intendo e anzi per me è la stessa cosa, anche se me lo monti in 4 versioni diverse e smontato cronologicamente non me ne accorgo, però non vedo tutte queste differenze, quindi... questo come il mio amico che vide prima il CD, il DVD 2 del Padrino parte 2 e poi l'1 e disse però non è tanto coerente, e beh, grazie al cavolo. Avevo anche visto quindi, Pulp Fiction, è tutto strano, no, quello è normale. Anche Memento. Però, quindi, insomma, è un parere che il tuo, che possiamo allargare anche alla trilogia del Signore degli Anelli, da quanto ho capito, insomma, è proprio una questione di del fatto che non ti piace il genere, non riesci a... Io la Extended l'ho vista praticamente di fila con Intrinseco, abbiamo fatto nottata, pomeriggio e due giorni di fila, tipo... E alla fine cosa ho detto? Sì, bello, però vabbè, insomma, non mi entra, non mi entra sotto pelle. Vabbè, ma non è che i generi sono, cioè, sono diversi i generi, perché i gusti sono diversi. Certo. Sì, sì, però dico, non è che sono come quelli che, per esempio, gli fa cagare l'horror, fa cagare tutto. No, io ammetto che questo è un film ben fatto, come vabbè, anche sì, Signore sì, degli sì. Anelli, però non vado oltre. Bello, punto. Il 6 politico, ecco. Non riesco a dargli di più, se proprio dovessi votare. Vabbè, poi insomma uno può discernere il gusto dal giudizio tecnico, anche in questi casi conta, visto che insomma, la cura tecnica è sempre non vistosa. Poi è chiaro, sì, è normale che ci sia... Sì, quei voli pindarici dentro la casa dei nani all'inizio, cos'è la casa nella grotta? Erebon. Che stai facendo? Ah, sì, ok, sì. La montagna, sì. Vabbè, bellissimi, quelli sono. Cioè, il prologo è veramente bellissimo, praticamente inutile perché dura mezz'ora e devi semplificarlo, però bellissimo. E mi bastava quello, poi e veramente mi bastava quello, così avevo 2 ore libere. Quasi. Voglio sentire a te. E va bene, no, anche te, solo te. Sì, vabbè, visto che sono stato accusato di ignavia, parto da quello che non mi è piaciuto, che poi vedremo nello specifico. Intanto, vabbè, è vero, è impegnativo, perché sono quasi 3 ore in un cinema, non a casa, quindi senza pausa, senza la sedia comoda, e noi l'abbiamo visto in un cinema famoso perché fa schifo, e qui c'è da dire un paio di cose. Intanto, ok, abbiamo visto in 2D, però la proiezione era di una qualità da denuncia. Intanto all'inizio c'erano degli scatti vistosissimi nella parte di Erebon, e poi scuro come non mai ogni volta, e poi appunto sedili trascomodi, io ero stanco, sono 2 esami in una settimana che faccio, ero cotto, quindi metto questo davanti per dire che non è che mi sono annoiato, anzi, è che comunque l'ho sentito come film, l'ho sentito più qui che magari con roba come Tree of Life, è stato fisicamente... impegnativo, ecco. E detto questo, una delle cose che mi sono piaciute questa è il doppiaggio. Non avete parlato, ma e non parlo di Proietti, che anzi ha eliminato ogni dubbio che potevo avere. Mi è piaciuto, ci sta bene. Se questa è la soluzione di ripiego, va benissimo. Tra l'altro critiche davvero ingiustificate ho letto sul forum. Vabbè. Il doppiaggio che non va bene invece è quello di personaggi secondari, tipo i troll, il re dei goblin, ma anche alcuni dei nani. C'è questa cosa di dover per forza, siccome il film ha un tono più leggero, allora mettiamoci le macchiette anche a doppiare. Sì, ma vai a sentire come sono le voci originali, non è tutto gioioso e gay come alcuni dei troll, che non ha senso. Come fanno ad avere la vocina? Vabbè, bisognerebbe anche sentire l'originale. Comunque è davvero fastidioso, non so, a me ha davvero urtato sentire certe voci che cozzano proprio, sembrano anche registrate in un volume, in un tono che non c'entra nulla con quello che stai vedendo. Che poi, a me, scusa se ti interrompo, una cosa che mi ha dato veramente fastidio è durante la prima canzone, quella quando riapparecchiano, lì proprio il doppiaggio mi ha dato veramente stomaco. Sì. Ma allora ti lascio fare. No, comunque è vero, io avrei parlato più dell'altra canzone, però anche in quella è proprio il classico doppiaggio che corregge tutto per fare le rime, per far piacere all'italiano, ma lascia in inglese e metti i sottotitoli se proprio serve una traduzione, anche perché dai, Misty Mountain è un testo elementare, sono 2 strofe, è chiarissimo, anche per chiunque sappia un minimo di inglese può arrivarci, lasciala così. Nell'originale, nel trailer era stupenda, e in italiano è un massacro, e sembra un coro della chiesa, tutti monotono, tutti alpini. Uguali, sì, il coro degli alpini, ecco, mi era venuto in mente prima e non ci sono ritornato, gli alpini davvero, bruttissimo, io non amo le canzoni nei film, non le amavo nei libri, Il Signore degli Anelli è stato faticoso soprattutto per questo, ce n'è uno ogni 10 pagine, però in inglese sono ben fatte e qui c'è dietro gente competente, le ascolto volentieri. Il motivo per cui i Muppet non sono riuscito a rivederlo in italiano, davvero un massacro. Poi ecco, a proposito delle musiche, una cosa che mi è dispiaciuta, Misty Mountain ha un tono, cioè ha una melodia molto bella, poteva essere il nuovo tema, in un certo senso lo è, ma secondo me si ricorre troppo alle vecchie musiche, che sono bellissime, però visto che fai una roba come Misty Mountain ed è stupenda, fai il 30, hai fatto 31, cioè potevano usarla molto di più, secondo me è un ottimo nuovo pezzo e non ha nulla da invidiare alle vecchie musiche. Poi nel fatto del doppiaggio delle canzoni, la voce di Thorin non c'entra nulla, in originale la voce calda, forte, perfetta, anche quella del personaggio, vabbè, lasciamo stare. Poi dunque sì, sulla questione del ritmo, sono d'accordo, è stato impegnativo, più che altro perché la prima parte, come hai detto tu e hanno detto altri, sembra che voglia fungere da introduzione generale, non solo del film, ma dell'intera trilogia, e quindi è tutto, insomma, è un film a episodi, cioè hanno dovuto raccontare una serie di cose, cioè l'introduzione, che è quella di un Bilbo adulto, che racconta, anziano, che racconta, poi c'è un'altra introduzione, poi c'è il flashback sui nani, c'è l'altro flashback, ed è così tutto spezzettato, che secondo me questo dà già il colpo di grazia in partenza al film, perché si perde parecchio tempo per mettere le carte in tavola, lo spettatore è passato un'ora, tra virgolette, non ha ancora visto nulla, e ne aspettano altre due, ed è giustamente stanco, non perché non ci sia materiale, ma perché viene sommerso da roba che ti sovraccarica, insomma, c'è un sovraccarico di informazioni, da qui mi collego all'altro discorso. Ecco, le paure sulla divisione in tre parti, secondo me relativamente giustificate, perché comunque ha dimostrato di avere il materiale che serve per riempire una trilogia. Poi, come dicevi tu, un po' di diluimento si sente, di allungamento del brodo, però non è un brodo, nel senso c'è un uso sapiente del materiale che ha messo Tolkien, cioè quando si riempie il buco per arrivare ai 170 minuti, c'è un perché, c'è il flashback che ti dice una cosa che magari nel libro non potevi sapere, però uno spettatore che non ha letto, ha letto solo una parte dell'opera, può trovarla utile, o comunque può avere una visione d'insieme che altrimenti non avrebbe, oppure anche i pezzi in cui vedi quello che Bilbo non può vedere perché è in una situazione differente, magari nel libro si perdeva questo aspetto, se non sbaglio, io non ho letto Hobbit, però leggevo, qualcuno diceva, mentre Bilbo risolve gli enigmi non si sa cosa succede ai nani, almeno non c'è una descrizione di quello che succede, invece nel film non solo hai modo di saperlo, ma hai modo di vedere una sequenza più belle o più divertenti del film, ed è un errore quello. È un errore? Sì, non la cosa che ha detto lui. Un errore, hai fatto un errore. Un terrone lui. Terrone. È un errore, perché se Bilbo sta scrivendo la storia, come fa a sapere quello che stavano facendo i nani? Sto scherzando. È vero, no. È vero. No, però c'è ragione. Sì, nel libro sarebbe un errore. Qui è da subito, mi è messo in chiaro che se ne fregano dal punto di vista, è un attore onnisciente, sì. Comunque è vero. E sì, appunto, dicevo, hai modo di vedere delle scene che nel libro non ci sono e che sono tra le più belle del film. Quella nella canna dei Goblin magari non è tra le più belle, ma tra le più divertenti. Ecco, lì magari sei stanco morto, però arrivi a quel punto e dici, ah, guarda che bello, siamo un otto volante incasinatissimo, non so in 3D come sarà stato, ma è davvero bello, è eccessivo, è tragicomico, perché c'è quell'azione un po' sopra le righe che vedevamo anche con Legolas nella trilogia. Però è molto bello, è questa discesa incasinatissima di loro che affrontano quest'orda di goblin, saltano da un ponteggio all'altro, e tra l'altro è anche un omaggio, una citazione ai ponteggi delle miniere di Moria, no? Che ondeggiavano, sì. È anche un'altra citazione, insomma, un altro riferimento. E poi ci sono altre scene bellissime come quella dei giganti. Boh, io lì ero appagato visivamente, questa cosa, sì, dal lato c'è la grandezza, l'epicità dello scontro tra le montagne, e sotto in piccolo questi nani cercano di saltare da una gamba all'altra, è una scena davvero stupenda, mi dispiace se l'ho visto in quel modo squalido al cinema, perché davvero questo qui mi ricollego al discorso della Deathsis, il cinema che ti dà un servizio pessimo, ti fa venire male di non solo non andarci più, ma appunto andare a rivolgerti solo, non alla pirateria magari, ma al cinema in un video, ti compri il Blu-ray, lo vedi bene, stai comodo, non ci sono problemi tecnici, soprattutto vedi quello per cui hai pagato invece di vedere una macchia scura. E è un peccato che un film del genere, che tecnicamente ti offre questo po' di roba, e dispiace non poterlo assaporare, anche perché appunto sei stanco, ti massacrano per 3 ore e non riesci neanche a vedere la parte migliore, insomma. È proprio fastidioso. Okay. Ecco, siccome abbiamo citato almeno un paio di volte la The Tassis, se siete interessati a leggere quello che ha detto, insomma, non esprimo giudizi, lo stavo per fare, dovete cercare su Google Huffington Post, cercate l'articolo Il cinema non è morto ma bello svenuto, o più semplicemente cercate The Tassis e cercate questo articolo qui per capire a cosa facciamo riferimento. E sulle scene d'azione, io l'ho visto, ripeto, l'ho visto in 3D a 24 fps, effettivamente sono molto curioso di vederlo, sarei stato curioso di vederlo in 48 fps, perché proprio in quelle scene, almeno per quanto mi riguarda, tendo un po' a dimenticarmi del 3D. E quindi non vedo la differenza rispetto a una scena 2D. Ma probabilmente magari valorizza le scene magari tranquille, dove hai una profondità di campo maggiore, hai, sì, che ne so, la pianura neozelandese, quanto è bella, la rivediamo qui, è pazzesco. Quelle scene nel verde, non solo la contea, ma proprio magari quando si infilano in quel passaggio segreto nel mezzo, sì, dello scontro tra gli elfi e gli orchi. Come è possibile? È verde per chilometri, non c'è assolutamente niente, non serve neanche il digitale, non devi aggiungere sfondi, fondali, è pazzesco, davvero. Sì. Dovrò girarli tutti lì, questi film. Nuova Zelanda valorizzata dal cinema. E poi concludo, visto che stavamo parlando più in generale, comunque, messa da parte la fatica fisica e psicologica e i fastidi del cinema in cui l'ho visto, ripeto un po' quello che hai detto tu, passi 10 ore a vedere una trilogia in quei posti, con quei personaggi, con quelle cose, passano un po' di anni ed è bello ritornarci, e questo forse non è tanto per dire, nel senso che il film riesce a dare valore a questo, non è solo ridiamogli quello che gli piaceva, no, è un altro viaggio, anche queste piccole cose, l'idea del viaggio, della comunità peregrinante, insomma, del Bilbo che rispetto a Frodo è un po' più interessante come personaggio, no? Non è spinto dalle necessità, e lui è un assetato di avventura che se ne dimentica e ha bisogno che appunto compaia Gandalf e gli faccia, insieme a dei nani, e che gli faccia capire cosa vuol dire non avere una casa o averla, cosa vuol dire lottare per, insomma, riprendersi quelle cose elementari che spesso dimentichiamo. È bello, è divertente, ci sono delle bellissime scene, anche quella un po' più sciocca dei troll, che è stata aggiustata, ecco qui una modifica secondo me logica, sì, va bene il tono fiabesco, ma fare una scena di un'ora in cui Bilbo distrae gli i troll non avrebbe avuto senso. Introduci, sì, un Deus Ex Machina, perché lo è Gandalf, però ha senso, ecco, dai quel tocco in più, quell'impegno, non dire semplicemente rispetto alla volontà dell'autore, no, la rispetto, mi diverto a trasporla per il cinema, mi diverto a girare queste scene, e lo si vede nei backstage ancora una volta, come per Il Signore degli Anelli, basta vedere su YouTube il diario di produzione, e Jackson con questo sorriso a 32 denti che va in giro per le scenografie che ha lasciato lì anni prima, insomma è davvero un bambino che si diverte a farlo, forse si diverte troppo e ha troppo materiale, lo ammucchia lì, non proprio senza grazia, ma con, insomma, la voglia di divertirsi, e si dimentica, insomma, che c'è uno spettatore che deve stargli dietro. Questo non vuol dire che siano brutti film, però, insomma, conta nel giudizio. Certo. Ma poi non so scritto da nessuna parte che il film debba seguire pedissequamente il libro, insomma, che si prenda delle libertà magari è anche un pregio, perché è una trasposizione troppo pedissequa, non lo so, non vedo dove sarebbe il valore aggiunto. No, appunto, il rispetto è una cosa, la creatività in funzione di questo rispetto è ancora meglio, no? Certo. Vabbè, non volevo giusto dire qualcosa sulla compagnia dei nani, che effettivamente non c'è tanto... Sfigati. Sì, sono degli sfigati, e secondo me la cosa è stata resa benissimo, nel senso che c'è la scena in cui escono dal regno dei goblin, insomma, Jackson li inquadra come per, quasi come a dire, ma cioè, guarda gli sti poli sfigati vestiti con gli stracci addosso che vogliono fare una cosa che non è alla loro portata, non possono riconquistare niente, vanno in giro con quattro stracci, manca uno straccio d'armatura e vogliono andare a battere il drago. Insomma, anche questo secondo me è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Come dicevo, c'è poco spazio per descrivere bene tutti quanti. Il doppiaggio italiano senza dubbio esalta quella, il fatto che alcuni sono solo delle macchiette, come diceva, è intrinseco, però sì, secondo me è notevole, ecco. Non condivido nemmeno le critiche, perché non ho letto alcune da quel punto di vista, del fatto che sono personaggi che non sono stati resi bene. Poi vabbè, qualcuno si è concentrato sul fatto che combattono come ninja, però vabbè... Non lo so, non so neanche come rispondere a quel tipo di critica. Ma secondo me la caratterizzazione... Come fai a caratterizzare 13 personaggi? Ma poi che palle, cioè ogni personaggio dei 13 deve avere il suo spazio? No. Appunto, no. Ah, anche così infatti va benissimo. È proprio bello il fatto che è caratterizzato il gruppo. Sì. Cioè, come se fosse un'entità sola. Poi c'è Thorin ovviamente che spicca perché... è una personalità più forte, però il gruppo dei nani è come se fosse un unico organismo, ecco. Ma è che sono troppi, l'importante è far emergere quelle figure, non solo Thorin, ma anche, oddio, ricordo, quello diciamo che fa un po' da saggio... Balin. Esatto, sì. È un personaggio significativo, sì, ci sono quei dialoghi che sono più che altro i flashback, però ecco, anche lì dà spessore al personaggio, no? L'anziano che segue il giovane, c'è bisogno di carne giovane, di un leader. Sì, poi come dicevi tu è molto bello il finale senza rivelarlo, a parte chi l'avrà letto lo conoscerà, però lasciamo la sorpresa. È vero, deprimente dal punto di vista dei personaggi, perché non solo sono descritti come dici tu, ma escono da una situazione di quel tipo in modo sì divertente ma tragico, e si trovano in un momento epico che dovrebbe essere, sai, la rivalsa, e succede quello che succede. E poi boom, finisce lì, con davanti una distesa, insomma, i due film che ancora mancano, e l'idea di questi 13 sfortunati, sfigati, che devono fare un'impresa titanica. Io che non ho letto il libro, ho davvero voglia di vedere come continua, che dico, come fanno loro 13 in quelle condizioni a fare quello che un esercito di nani non ha potuto fare? Cioè la curiosità di andare avanti, e questo è bello, è un buon segno. E poi vabbè, a me quell'abbraccio ha risvegliato lo spirito gay... che latente, che alberga nel mio cuore. Volemose bene, però sì. Volemose tanto bene, sì. È stato liberato, è stato quasi liberatorio, ecco. Sì, era finito. Smorza bene la tensione dovuta sia a quello che voleva farti provare Jackson, sia a quello che hai provato involontariamente per le lungaggini e tutto il resto. È un signor smorza candela. Esatto. Non lanciamo messaggi sbagliati, potete portare i bambini a vederlo, non ci sono cose smorza candela in senso. Ma secondo te ci ascolta qualche pare di famiglia? È vietato dalla legge. Ma poi ecco, c'è da fare una precisazione, ma va bene, il discorso delle aquile, non serve neanche spoilerare, no. Però nella trilogia aveva un perché tu dicevi, vabbè, non le usano, perché se le usano li vedono subito, ma qui... E io ho pensato, c'è il drago, loro non ci vogliono andare, ma è proprio per trovare una giustificazione io. Però in generale, qui davvero era da dire, ma portateli lì, poveracci. E poi finisce in quel modo che c'è questa montagna, dice, ma non è che sono arrivati. No, non sono arrivati. Cioè... No, perché qualcuno ti dirà che, non so, come hanno scritto anche sul forum di Games Village, non sono esattamente il taxi di Gandalf. Vabbè, ma hai fatto quei 100 metri, fanno 200, dai. Portate che cavolo. Sono delle risposte. Poi io dicevo, mentre vedevamo il film, ho fatto un'osservazione, soprattutto nel Signore degli Anelli, ma in questi film dove c'è un viaggio molto lungo, quando fanno un campo lungo e fanno vedere tutta la strada che c'è davanti, io sarei il tipo che lì dice, no, basta, prendetevi la vostra miniera, io torno indietro. È desolante, anche nel Signore degli Anelli, vedi queste montagne, questi campi che non avevano un orizzonte. Io mi arrendo subito, sarei un pessimo avventuriero. Sì. Va bene, non so se volete aggiungere... Gandalf poteva benissimo chiamarle dal minuto 1. le aquile. Oh, venite, boom, siamo già arrivati. Boom. Ma te l'ho detto che non so il taxi di, i taxi di cosa? Di no, canta, no, aspetta. No, il problema è che lui per tutto il film, se guardi bene, sì, si aggira cercando una farfalla, non ah, la trova fino a quel momento, quello è il problema. E lui cerca e fa, mannaggia, che culo la farfalla. Avessi un portatile, almeno userei il servizio telematico. Invece sì, no, devi proprio trovare la farfalla. E vabbè. Sì. Non solo Gandalf è un deus ex machina quando ci sono i troll, sì? Ma sempre, comunque sì. Sì, appunto, anche nella casa dei goblin. Sì. Sì? Anche sì, lì sì, arriva fuori dal nulla e fa, tira quel rutto pazzesco che spegne tutti. Vabbè, anche nella, sì, nella trilogia, le due torri, al fosso di Helm è lui che in un certo senso salva tutto, ma anche dopo, insomma, c'è sempre qualche deus ex machina in questa serie. Vabbè, ma comunque è una semidivinità. Vabbè, ma poi stiamo parlando di romanzi fantasy scritti all'inizio del Novecento, è una forma narrativa che è arcaica e quindi è normale, insomma. Nel film magari però stona di più, però che fai? Stravolgi tutto, allora. No, tu chiedevi come fanno questi 13 nani a conquistare e a battere un drago. E sono buoni tutti col mago così. Ah, sì. In effetti. E sarà quella l'arma, sì, non so. Io l'ho letto, voi vi spoilerò tutto. Tra l'altro avete visto, c'è la locandina, comunque c'è un'immagine del secondo capitolo, mm-hmm, e c'è un'immagine di Bilbo disteso in un mucchio d'oro, quindi vabbè, si sa cosa succederà, però. Sì, secondo episodio che si chiamerà La Desolazione di Smaug. Esatto, sì, previsto 2013, invece, ma non so. E non so, qua non risulta, però chissà. L'Hobbit. No. Avevano delle lettere. No, ma guarda. Comunque immagino che uscirà anche il secondo e il terzo episodio, usciranno nel periodo natalizio, insomma. Seguirà più o meno l'iter della trilogia del Signore degli Anelli, credo. Almeno da questo punto di vista. Non ricordo più, il Signore degli Anelli era sempre uno all'anno o c'era più parte? Uno all'anno, no. Uno all'anno, sempre nel periodo natalizio. No, quindi sì, probabilmente seguono. Anche perché sicuramente lui li ha girati tutti in fila. Magari mentre montava, sì, il primo, stava già girando il secondo. Quindi probabilmente è finito come saga. Dovrà solo distribuirli. Mm. Ecco, è anche bello sapere che comunque a Natale sì, avremo qualcosa da aspettare. Ecco. Ah, ecco, ultimo capitolo 2014, L'Hobbit, andata e ritorno. Ah, ok. Meno male che li hanno girati subito, perché ho visto Christopher Lee parecchio fermo. Si aspettavano. L'altra cosa che non mi è piaciuta qui, Saruman è un vecchio rincoglionito, ma un bacchettone del cazzo. Non ti bischiare. Mamma mia. Sempre a fare queste cose, che cavolo. E poi rintronato, biascica, borbotta. Portami in bagno. Poi Galadriel lo sbertuccia proprio, dice, lascialo parlare. Meglio è quando appunto questa comunicazione telepatica, come di, ma che ce frega, parliamo noi. Sì, sì. Con la compiacenza di Aaron. Lì davvero c'è il crollo del ritmo, non so se perché lui parla questo ritmo suadente, ma lì davvero ho sentito la fatica. Prima di sì, è lungo ma è bello. Lì ho detto, oh... Io l'ho visto due volte, no? La prima volta veramente non finiva più. La seconda, che ero predisposto comunque a una sequenza che per forza di cose avrebbe significato una rottura di coglioni colossale, invece non l'ho sentita così tanto. Quindi forse magari è il primo impatto con la sequenza particolarmente lenta che può... Ma a me era successo anche con Il Ritorno del Re, che ho visto al cinema. Anche lì ero parecchio provato, però dopo... L'ho amato sempre di più, per questo dico, ho fatto quella lunga premessa, perché secondo me è stato il contesto, il momento, la stanchezza e tutto, probabilmente rivedendolo, come dico io, mi piacerà molto di più, non che non mi sia piaciuto, però vanno visti e rivisti questi film, anche se è faticoso. Ecco, magari senza audio che salta, immagini sfocate. Esatto, sì, soprattutto. E nani, sì, meno nani per tutti. Hai visto che uno dei nani era quello del Manchester, Nani? No. Oh, sì. Due note su Christopher Lee, che sì, è più là che qua. Non è andato in Nuova Zelanda lui, e neanche Ian Holm, perché proprio il medico gli ha detto, no, guarda, tu sali su un aereo, non ci scendi, gli hanno detto. Quindi l'hanno girato ai famosi Pinewood Studios a Londra e boom, stai lì buono. Per quello dicevo anche, meno male che è finito e lui ha fatto la sua parte e boom. E in più lui voleva fare anche la voce di Smaug, il famoso drago dei fornelli, Smaug. Uh-huh. E invece alla fine gli ha detto no, perché probabilmente non ha neanche più la voce, gliela facevano in digitale come in Star Wars. Appunto, ormai non recita più, attaccano la sua faccia a un computer, alla computer grafico, come la moto di episodio 2, è terribile. No, aspetta, però lui l'ha fatta la voce di un drago, ma in un film molto più bello, era il Jabberwocky in Alice in Wonderland. Mamma mia. Tutti okay. Molti dei nani hanno doppiato i troll, cioè no, tre dei nani, oltre che i nani, doppiano anche i tre troll dell'inizio, vedevo ora su IMDb, è strano, sono in originale. Sono molto curioso di rivederlo in lingua originale, perché, come dicevi tu, il doppiaggio fa veramente pena, a parte i proietti. Sì, paradossalmente. Tu parlavi delle critiche ingiustificate, non capisco perché si debba dire la cavolata che parla in romanesco, non è vero. No, ma è uno che sta proprio lavorando sulla voce, che se vuole fa il romanaccio, ma se vuole sa doppiare, l'ha fatto tante volte. Ma in una scena però lo fa, quando dice al negromante gli devi cagar cazzo, quello lo dice, dai. Quello sì. Sì, vabbè, perché... Non gli devi cagar cazzo. Comunque, uno per chiudere in allegria, te vedevamo il film, io e il Monco dicevo, ma a chi somiglia il re dei Goblin? Lui ha detto, non mi ricordo chi. Hai citato un politico, forse, non mi ricordo. Io ho detto Giuliano Ferrara. Pannella, io ho detto. Pannella, ecco, invece no, giustamente Arcorino, che io odio, però questa volta ha ragione. Odio? Sì, io non so, io odio molte persone, ma senza motivo. Ha detto, effettivamente, che somiglia a Giuliano Bignasca della Lega dei Ticinesi. E vi linko la foto, voi che potete vederla. E ha ragione, è uguale. Com'è nato a ricercarlo, mamma mia. Non lo so, però ha ragione, guarda. È pazzesco, ha il mento gonfio. Ecco. È anche uguale ai Vogon di Guida Galattica per autostoppisti. Sì, è vero. E tra l'altro i Goblin sono molto simili alla Lega dei Ticinesi, quindi tutto si chiude. Vedi? I sono capeggiati da un romano, eh? Vedi? Vedi? Ok. Altra... Vabbè, un'informazione piccola, visto che Christopher Lee non doppierà Smaug, lo doppierà Benedict Cumberbatch, che è lo Sherlock Holmes televisivo, insomma, che poi ha recitato insieme a Martin Freeman, è proprio grazie a questa amicizia che ha ottenuto la parte. Figa. E mi sembra di aver letto che Smaug è stato realizzato attraverso la performance capture, un po' come Gollum, quindi avrà anche le fattezze di Benedict Cumberbatch. Che ho trovato che un lago vero e gli hanno attaccato dei sensori, come funziona? Non lo so, lui forse c'ha la faccia un po' da drago, un po' ad angolo. Però chissà come ha mimato le movenze, cioè deve essere interessante. Lui è molto inquietante, insomma, se lo incontri in un vicolo buio cambi strada probabilmente. Vabbè, con quel nome. E che farà anche il cattivo nel prossimo Star Trek. Ficata! È vero. Ma che poi non è lo stesso attore, non è anche... Si è parlato insieme. Non era nella talpa? Sì, esattamente. Era il giovane omosessuale. Omosessuale in talpa, era strano, vabbè. Conturbante. Dicevi, Monco? Sam Worthington, ho sentito. No, dico, il nuovo Sam Worthington è quello che cavalcano per 2 mesi, lo mettono in ogni film e poi lo se ne dimenticano completamente. Probabilmente. L'effetto Worthington. Sì, probabile. Beh, oddio, però lui non è così male come Worthington, insomma. Sì, ma lo usano, vedrai. Poi, poveracci, lo buttano via come una salvietta. Non ha manco il fisico, cioè, forse ce l'ha qualche dote, dai. Guarda che io ho fatto lo Hobbit, ero il drago, ma figurati, ma guarda che l'ho visto. Non è come Jack Nicholson, che questo è un bel aneddoto, è andato a vedere, come si chiama l'ultimo capitolo del Signore degli Anelli? Ritorno del Re. Che era quello più lungo, no? Sì. È andato a vederlo e dopo un'ora è uscito, così, che lui non ne poteva più. È uscito, ha visto Elijah Wood dopo che è finito tutto il film e ha detto, oh, ma sei bravissimo, questo film è bellissimo. Ne ha visto un terzo. Come il Morandini. Sì, esatto. Sì, però non lo fa per pressione. Minchia. Oggi ho visto il Morandini 2013 e mi è passata la voglia di vivere. In cartoleria, dove mi hanno fatto pagare 10 centesimi a fotocopia. Aia. E vabbè. E dopo casa Alex Viro, che cosa passiamo? Passiamo a un'ultima, no, un'ultimissima. Ah, vi lasciamo, chiudiamo l'Hobbit, sì, lo chiudiamo qui con questa, sì, bella immagine. Nuova Zelanda, tutti i classici camion della troupe parcheggiati, e da uno di questi scende Ron Perlman, pronto e vestito da nano, che arriva e tutti lo guardano stranamente, no? Allora lui si aggira, va sul set e lo fermano di colpo. Scusa, ma te cosa ci fai qua? Ah, non è la scena dei nani? No, no, ma tu cosa ci fai qua? Guarda che Guillermo del Toro ha lasciato da 2 anni. E niente, gli hanno detto, guarda che adesso ce l'ha in mano Peter Jackson, quindi torna a fare Sons of Anarchy, a rompere le palle. Comunque era lì del Toro, perché anche il co-sceneggiatore. Sì, ma è, si è nascosto in quei momenti. No, no, diteli che non ci sono, diteli che non ci sono. Non ci sono, non ci sono. Tra i mille impegni che ha preso, questo è forse il primo fallimento. Eh sì, perché insomma, ogni 10 minuti esce una notizia sul nuovo film di Del Toro e ma vi ricordate, non si sa più niente. Lui doveva dirigerlo, poi la MGM è fallita come per Bond, quindi hanno aspettato che tornasse dall'operazione Jackson, che si era operato non mi ricordo più a cosa, e hanno detto vabbè dai, lo fa lui. Beh, Del Toro dove torna? Nel quel capolavoro di Pacific Rim. Già. Questa è una cosa quei robottoni. Sì. E vabbè. Beh, chiudiamo cantando Misty Mountain. Lontano su nebbiosi monti gelati in antri oscuri. Ammazza quanto è brutta. No, invece facciamo qualche anticipazione sulla prossima, sul prossimo episodio, che il Monco già ha deciso in cosa consisterà. Parliamo un po' anche, vabbè, parliamo un po', i film che escono questa settimana, ovvero oggi, perché stiamo registrando di giovedì, sono abbastanza interessanti. Parliamo di sì, La vita di Pi, di Ang Lee, fa molto rima, Ralph spacca tutto e continua a chiamare Vrek spacca tutto, meraviglioso, Vrek spacca tutto. E quali altri ci sono? Dai, diccelo tu. Chi, io? Io? Tu, sì. tu che ti ho sentito un attimo che sto chiudendo la pubblicità. Ah. Vabbè, scusa, i due soliti idioti. Scusa, ma vedi tu questo? No, e no, soprattutto c'è quello nuovo di Redford, La regola del silenzio, The Company You Keep, che noi ne avevamo parlato. Quello mi piacerebbe proprio vederlo, però mi sa che non si trova e che non avrà molta distribuzione. E poi, beh, ieri è uscito Eccezionale, no, cioè sì, è uscito, hanno riproposto al cinema Eccezionale veramente, solo che era solo ieri, quindi lo siete persi. Mannaggia. Ultima uscita dell'anno sarà invece La bottega dei suicidi di Patrice Leconte, sì, che esce il 28 dicembre. Che ripetiamo, potrete vedere solo se siete maggiorenni. Esatto. Ecco. E niente, quindi di nuovo squallore tutto italiano. E quindi la prossima puntata parleremo anche delle top flop di quest'anno, no Monco? Sì, preparatevi, perché prima faremo le nostre top e flop, magari mettiamo anche qualche categoria in più, che ne so, miglior sceneggiatura, miglior fotografia, attori sì, dai, tanto qualcuno ci sarà piaciuto così tanto da aver già fatto una semiclassifica. E poi più avanti cercheremo di fare proprio i nostri Oscar, così potete cioè noi mettiamo la lista, poi la decidete voi chi vince. Però partecipate, no? Come le altre volte. Eh sì. Appunto, voglio anche vedere quanti veramente ci seguono. Sarà una bella prova, ecco. Ovviamente daremo dati falsi dopo, che circa hanno votato in 10.000. Non sarà pubblica la votazione. Statene certi. Ma sarà come alle primarie. Se volete votare, dovete venire a portare 2 euro. No, scusa. Offerta libera, se paghi 2 euro sei un barbone. Offerta libera maggiore di 2 euro. E se non potete, si fa la votazione una volta dopo, ma dovete portare la giustificazione. Vabbè. Sì. E niente, allora direi che possiamo concludere qui questa puntata. Salutate tutti e due. Ciao! Tutti e due. No, ultimissimissima. Vi siete persi Side by Side? Lo stanno rifacendo, dal 17 dicembre in streaming su MyMovies, questa volta non è il giorno singolo, ma lo mandano a ripetizione come manco Ghost su canale 5, quindi riuscirete sicuro a vederlo. Hai finito di contraddirmi? No. Oggi mi hai contraddetto per un'ora e mezza. Ho anche ruttato, Lo so, grazie. Sono rientrato alle contraddizioni. Sì, esatto. E va bene, ragazzi. Allora... sono le feste, non ci sentiamo per un po'. Auguroni. È vero. Augurauni. Master, date una carezza ai vostri figli. Vabbè, no, uno schiaffo. Che non è una carezza. Sì. Uno schiaffo, un bel ceffone, un mal rovescio. E ditegli che il monco vive nell'armadio. E poi c'è anche Dead Snow. Basta. Ciao a tutti, belli e brutti, buon Natale. Ciao. Natale con chi vuoi, Pasqua se ci arrivi. E domani finisce il mondo, ciao. Ah, vero, ciao. Quindi non ascolterete mai questa puntata perché non la editerò stasera. Vero. Vabbè, quello lo dici sempre. Ciao.